potesti delle genti dritto universale, traditor calpestore, ospite venni pur. E tu superbo oppressore del re, del mondo intero, tiranno insaziabile e funesto, qual hai ragion de più remoti regni di turbare la quiete, né mai d'incrudelir saziar la sete? Me guidò nell'Egitto il sol desio della gloria che cerco, miro se solo qual mi credi superbo. Olà, si folga la catena al suo piede, vivi e la reggia tuo carcere sarà. Né si richiede per ostaggio di te che la tua fede. Più non trovo la madre e pur seguire il suo destin voglio, spavento al solo pensar qual alma impetuosa ha in sino. Santi nomi del ciel, se mai vi porsi, coste previene vuoti. Ah, miserbate una madre amorosa, e vendicate il genitor tradito, proteggete questo regno in Thank you.